Grazie, buongiorno. Buongiorno e buona domenica e benvenuti a questa seconda lezione di jazz nel nostro quinto anno, quinto ciclo. Oggi la lezione durerà un po' di meno perché mi interessa moltissimo quella sulla resistenza che c'è altrove, quindi farò 10 minuti, poi mando in automatico il resto e voi vi seguite. No, a parte gli scherzi. Allora, oggi è una guida all'ascolto al bebop. Vi dico subito che cosa non è questa lezione, non è una storia del bebop. L'aspetto storico non lo affronteremo, anche perché ci sono diversi libri di storia del jazz, alcuni scritti da un insigne musicologo che fa anche delle lezioni all'auditorium, che ha scritto Una storia del jazz, dove c'è anche un capitolo sul bebop. Mentre mi interessa condividere con voi una specie di viaggio attraverso, come ho detto nel titolo, i molti volti del bebop, vedere il bebop da tanti punti di vista diversi, da un punto di vista stilistico, musicale e d'ascolto. Però, ecco, diciamo, un minimo di cornice per chi non fosse addentro alla materia è necessario. Stiamo parlando di uno stile di jazz che è emerso gradualmente nel corso degli anni della Seconda Guerra Mondiale, cioè grosso modo fra il 1941-42 e il 1945. Va detto che di questa fase di elaborazione abbiamo pochissimi documenti, perché fra il 42 e il 44 ci fu un lungo sciopero discografico, un boicottaggio che le case discografiche fecero nei confronti, diciamo, di chi doveva pagare i diritti. Insomma, era una storia un po', cioè, scusate, un boicottaggio del sindacato dei musicisti nei confronti delle case discografiche. Quindi i musicisti non registrarono praticamente dischi per 2 anni e quindi non abbiamo molti documenti di questa fase di elaborazione del bebop, ma quando lo sciopero finì, alla fine del 44, noi abbiamo i primi dischi ufficiali di personaggi come Dizzy Gillespie, Charlie Parker, e più tardi Bud Powell e più tardi ancora Thelonious Monk, e, come dire, abbiamo già questo stile definito. È uno stile che tra l'altro ha avuto una storia molto breve, perché vedrete anche che la gran parte delle registrazioni che ascolteremo vanno fra il 45 e il 48, anzi direi che nel 1949 il bebop era uno stile che si era praticamente esaurito, ma che in questa stagione brevissima ha lasciato un'impronta così profonda nel jazz e nel linguaggio musicale in generale, da poter tranquillamente parlare di musica prima e dopo il bebop. Alcune delle cesure che il bebop ha segnato sono definitive. Per esempio, il bebop è la prima forma di jazz che non si balla, cioè, o comunque che non è pensata per essere danzata. Il jazz fino a quel momento era musica da ballo. Con il bebop diventa esclusivamente o quasi esclusivamente musica d'ascolto. E tale poi è rimasta. Il bebop è prevalentemente musica per piccoli gruppi e non per big band, perché a partire dalla metà degli anni 40 c'è una crisi delle big band, da cui il jazz sostanzialmente non si riprenderà più. Sì, continueranno a esserci quella di Duke Ellington, come abbiamo visto, scusate, la volta scorsa, continuerà a esserci l'orchestra di Count Basie, eccetera, ma lo sviluppo del jazz avviene sostanzialmente con i piccoli gruppi. E il bebop rappresenta, come vedremo, anche un salto in avanti nel virtuosismo strumentale e nel senso della ricerca. Soprattutto il bebop afferma, e lo vedremo alla fine, in realtà, ma ve l'anticipo, afferma l'idea del jazz come arte. Cioè, fino a quel momento il jazz è stata musica di intrattenimento, che noi oggi consideriamo musica d'arte, perché è difficile considerare Duke Ellington o Count Basie semplicemente musica di intrattenimento, o gli assoli di Coleman Hawkins musica di intrattenimento, ma effettivamente il bebop segna uno spartiacque da questo punto di vista, perché i musicisti si propongono come vera e propria avanguardia, nel senso proprio delle arti, verrebbe da dire delle arti di inizio Novecento, cioè di una pattuglia di giovani, giovanissimi artisti, tutti tra i 20, 21, 22, 23 anni, che propongono una musica di rottura. Di rottura già dal nome, bebop. Che cosa vuol dire bebop? E in realtà non lo sa nessuno. Bebop probabilmente è un'onomatopea, che ha avuto varie incarnazioni. Per esempio in questo disco di Charlie Parker, notate, scusate, un po' sgranato, ma si vede Charlie Parker's Rebop Boys. Rebop. Scritto a volte, qui è scritto con la I, qualche volta è scritto anche con la E, Rebop. Ma poi questo modo di, questa espressione è diventata bebop. Che cos'è? Ma probabilmente è un'onomatopea. È un'onomatopea per un tipo di fraseggio che è tipico di questo stile, cioè il fatto che le frasi, lo vedremo, a volte finiscono con due note rapide. Cioè, se io dovessi cantarle farei bebop, bebop. Cioè queste due note finali brevi, bebop, che sono caratteristiche di questo stile, probabilmente hanno dato origine a questo nome. Qualcuno sostiene che l'idea di questo nome un po' bizzarro e di questa onomatopea scat, da canto scat, sia stata inventata da Thelonious Monk, che sicuramente ha avuto un ruolo importante nella definizione del bebop, anche se poco riconosciuto. Ora, il bebop è una musica che, come vi dicevo, si suona prevalentemente con dei piccoli gruppi. Ci sono dei motivi storici. Allora, il piccolo gruppo bebop è di solito un quintetto, cinque musicisti, e di solito gli strumenti sono questi: il sax contralto, la tromba, il pianoforte, il contrabbasso e la batteria. Anche se in qualche registrazione sentiremo la chitarra, generalmente la chitarra scompare dai gruppi bebop, e c'è un motivo, è che il bebop di solito viene suonato a un tempo talmente rapido che la chitarra che accompagna non ce la fa a star dietro. Non solo, ma la chitarra che accompagna serve a amalgamare la ritmica nelle big band. Nei gruppi bebop invece la ritmica tende a dialogare con gli strumenti. Questa è un'altra novità importante: la sezione ritmica dialoga con gli strumenti, mentre nelle big band di solito fa da sostegno neutro, no? Sta sotto e sostiene l'orchestra. Poi vedremo che ci sono anche altri strumenti, ma questo format fu imposto dai due principali innovatori del bebop, Charlie Parker e Dizzy Gillespie, di cui tra l'altro Dizzy Gillespie ricorre quest'anno il centenario della nascita, 1917, quindi ne approfittiamo per ricordare questo aspetto. Noi ascolteremo adesso uno dei primi dischi bebop, eccoli qui, Parker e Gillespie. Ascolteremo uno dei primi dischi bebop e vi prego di fare attenzione a due o tre cose in particolare. La prima è che è una musica incredibilmente frenetica. Questa non è una musica necessariamente piacevole all'ascolto, anzi all'inizio, quando il bebop apparve, molti la presero come una musica folle, incoerente, non si capiva, lo approfondiremo anche dopo dal punto di vista solistico, il senso di quello che si faceva. È una musica che si ferma e riparte, soprattutto è presa a una velocità rotta di collo, ma non è una velocità per mostrare il virtuosismo, è una velocità frenetica, una velocità esistenziale, non di esibizionismo, è quasi una specie di energia ansiosa che viene messa in campo. Secondo, è una musica per niente orecchiabile, non si possono cantare i temi. I temi sono spigolosi, sono aspri, dissonanti, e anch'essi seguono una logica apparentemente incomprensibile. Il tipo di sonorità di questo quintetto è dominato da un altro aspetto che è ben evidente nel brano che stiamo per ascoltare: gli unisoni del sax e della tromba. Cioè i due strumenti non suonano cose diverse, ma fanno esattamente la stessa cosa. I due suoni si fondono e questo rende il virtuosismo e il fraseggio ancora più tagliente. E ultimo aspetto, prima di ascoltare il brano, anzi penultimo aspetto, prima di ascoltare il brano, l'aspetto ritmico, su cui poi torneremo anche. Sentirete in particolare l'assolo di Charlie Parker, che ha degli accenti totalmente imprevedibili. In realtà Parker utilizzava una tecnica che abbiamo studiato in una precedente lezione, su quella su Coco, che infatti qui oggi non ascolteremo perché potete comunque recuperare il podcast, fu una delle prime lezioni di jazz. Quelli con i capelli bianchi che seguono le lezioni di jazz dalla prima edizione se la ricorderanno. Questo fraseggio ha un andamento ritmico peculiare perché Parker tendeva istintivamente ad accentuare le note più alte del fraseggio. Ora, queste note alte sono, come dire, legate a una logica melodica, non ritmica. Però lui ogni volta che faceva una nota acuta tendeva ad accentarla. Quindi avete come dei colpi improvvisi, irregolari, legati a questa accentuazione. Poi sentirete il registro sovracuto di Gillespie. Gillespie fraseggia a una rapidità incredibile sul registro sovracuto, che è una cosa incredibilmente difficile. Infatti sentirete un livello di virtuosismo esasperato. Ultimo aspetto, e passo subito all'ascolto, l'umorismo, su cui torneremo. Il bebop è una musica carica di ansia, di angoscia, di energia, ma anche ricca di humor. Addirittura lo humor viene fuori dal fatto di mostrare al mondo che questo virtuosismo pazzesco, strumentale, viene controllato con facilità. Come dire, guarda che cosa pazzesca che so fare, e ne ho un tale controllo che mi ci faccio pure una risata sopra. Infatti il pezzo Salpinaz, cioè le noccioline salate, è un riff di un salto di ottava. Salpinaz, ok? È un riff che in realtà era un ritmo di batteria che qui viene applicato ad una melodia. Vi farò notare, con dei gesti, come tutte le frasi, quasi tutte le frasi, finiscano con la coppia di note bebop. Dissonante. La solo di parte, tutto accentato. Ecco, questo pezzo pazzesco, acrobatico, fu percepito dai contemporanei come un pezzo davvero senza senso. Tra l'altro, dal punto di vista del business, sappiate che questa musica veniva registrata per piccole, minuscole etichette discografiche che provavano a puntare su questi musicisti che erano sconosciuti e si rivolgevano veramente ad una micro nicchia del già piccolo mercato del jazz. Ora, scendiamo un po' più a fondo su come funzionano i temi bebop. Allora, una cosa fondamentale dei temi bebop, come vi ho detto, è l'unisono, cioè il fatto che la tromba e il sax suonano la stessa cosa in parallelo, insieme alla stessa altezza, oppure ad ottave diverse. Ci sono dei pezzi, come vedremo, dove questo non accade, però questa è grosso modo la regola del bebop, tanto da essere diventato un tratto distintivo dello stile. L'altro aspetto è, come avete sentito, è che le melodie tendono ad essere piuttosto spigolose, con questi accenti irregolari e con frasi lunghe che a volte si interrompono dove non ve l'aspettate. C'è un pezzo di Dizzy Gillespie che un po' riassume tutti questi elementi, che si chiama proprio Bebop, ed è una delle sue prime composizioni del 1944, dove qui sentirete non il sax di Charlie Parker, ma il sax tenore di Don Byas, che fu uno dei primi sassofonisti con cui lui collaborò. E tra l'altro, bebop, torneremo tra breve sulla divisa, basco, pizzetto, non è casuale, occhiali scuri, con la montatura scura, eccetera. Tra l'altro, bebop ha la cosiddetta classica struttura AABA. Che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un'idea melodica, questa idea melodica viene ripresa, poi c'è un'idea contrastante, poi c'è la ripresa della prima idea. Vi faccio sentire giusto il tema, che è una specie di archetipo, diciamo così, dei temi bebop. Introduzione. Lunghissima. Tema. Seconda A. Uguale. Bebop. B. Bebop. A. Eccetera. Bebop. Parababà. E il pianoforte addirittura gli fa l'eco. Bebop. Ok? Questa frase chiusa in maniera... Un'altra... Mentre questo tema, come dire, più limpido e più leggibile, ce ne sono altri, tipicamente bop, che sono incredibilmente involuti, complessi, impossibili da cantare, e fatti di tante linee che a volte sembrano intrecciarsi fra di loro, soprattutto quando si scrive al pianoforte una musica del genere, cioè a suonarla non sono i fiati, per cui uno sente il rilievo della melodia e riesce a seguirla, ma quando il tema è fatto da un pianoforte spesso ci sono tanti fattori che concorrono di contrappunto, per esempio, nelle varie parti. Un maestro in questo senso è stato Thelonious Monk. Anzi, Monk ha scritto alcuni dei temi più complessi del bebop, che non hanno niente di questo andamento frenetico che avete sentito in Sal Peanuts o in bebop, sono magari anche più distesi, ma sono particolarmente oscuri, particolarmente intrecciati al loro interno. Sentite quanto è complesso il tema, scritto da Thelonious Monk, anche qui lo vedete con basco, pizzetto e occhiali, il tema di Off Minor, solo il tema, suonato al pianoforte. Eccetera, poi c'è l'assolo. Posso chiedere di alzare un pochettino la spia? Mi sembra un po' basso il volume. Come avete sentito, quindi qui è un pezzo veramente impossibile da cantare, molto, molto difficile, molto complesso. Questi sono un po' i due estremi dei temi bebop. Da un lato questa frenesia tagliente e dall'altra questo girare su se stessi così oscuro e complesso. Però in mezzo c'è anche un altro tipo di tematismo, per esempio quello creato da Bud Powell, che riesce a bilanciare, sentirete adesso questo tema meraviglioso, Bouncing with Bud, sempre AABA, riesce a bilanciare la lunghezza dei temi bebop, come per esempio il brano Bebop o Salt Peanuts, la loro articolazione, con una cantabilità, con la capacità di far respirare la melodia. Addirittura Bud Powell lavora molto qui anche proprio sul racconto del pezzo, perché per esempio il pezzo inizia con un'introduzione che è una fanfara, che non si capisce che cosa annuncia, perché poi a un certo punto il pezzo si ripiega in sé e comincia questa bellissima melodia fatta di, come sempre nel bebop, di piccole fermate, echi, ripetizioni, bebop. C'è questa sempre bebop con un'eco ritmica interna. La parte B di questo tema, sempre AABA, è suonata invece solo dal pianoforte, e noterete quindi la cura di Powell nel creare un contrasto. La A è fatta dal sax e dalla tromba, la B dal pianoforte. Una nota sul sound, questa è un'eccezione, non è un quintetto con sax alto e tromba, è un quintetto con sax tenore e tromba. Il sax tenore è un ragazzotto di 19 anni, pieno di talento, che si chiama Sonny Rollins. Il trombettista è Fats Navarro, c'è Bud Powell al piano, c'è l'altro ancora sopravvissuto di questa epoca, che ha 90 anni, Roy Haynes alla batteria, ha più di 90 anni oggi, e Tommy Potter al contrabbasso. Tema. Bebop. Ah. B. Più scura. Melodia. Passaggio di transizione. The Rollins. Thank you. bebop, sempre li caschiamo. Un'altra delle grandi innovazioni del bebop è, per esempio, in questo approccio melodico del pianoforte. Il pianoforte si sbilancia tutto sulla mano destra e sostanzialmente viene assimilato a uno strumento a fiato. Cioè, sì, il suono è quello del pianoforte, la tecnica è quella pianistica, ma il modo di affrontare il fraseggio deve essere, come dire, omogeneo a quello degli strumenti a fiato. Il modo di fraseggiare di Powell, tutto con la mano destra, sembra quello di un sassofono. Respira come un sassofono, respira come una tromba. È proprio una cosa voluta, è come se lui avesse portato sul pianoforte il fraseggio, gli accenti, il legato, l'articolazione di uno strumento a fiato. Questo tematismo melodico forse raggiunge il clou con la figura di Ted Dameron. Ora, il bebop in genere, giustamente, è considerato una musica principalmente di improvvisatori. Le più grandi innovazioni del bebop sono sul piano del linguaggio improvvisativo, che affronteremo tra poco. Ma il bebop è stato anche uno stile nel quale si sono mossi degli importanti compositori. E Ted Dameron, il pianista che vedete al centro di questa foto, in primo piano c'è Fats Navarro che suonava la tromba poco prima. Ted Dameron è stato il più particolare dei compositori bebop. Sapete perché? Perché nella sua musica si avverte ancora il profumo dell'era dello swing, il suono delle big band, i riff da ballo e soprattutto c'è un gusto melodico cantabile. Cioè, i pezzi, mentre i pezzi di Dizzy Gillespie e di Charlie Parker non li potete cantare, o quelli di Bud Powell come Bouncing with Bud solo dopo un po' di ascolti se li memorizzate, quelli di Dameron invece sono cantabili, sembrano pezzi vocali, gli manca solo il testo. Sono melodie facili, accessibili, però di cosa hanno di bebop? Per esempio l'andamento ritmico spezzato e, come vedremo, ve lo spiegherò solo alla fine della registrazione, certe particolarità, certe dissonanze armoniche. Un'altra caratteristica dello stile di Dameron è che invece del quintetto a volte preferisce il sestetto, come nella foto. In effetti il brano che stiamo per ascoltare ha proprio questo organico, con Ernie Henry, Charlie Rouse, Fats Navarro, Dameron al piano. Cioè, avendo due sax e una tromba, il gruppo suona come una specie di piccola orchestra. Quindi voi avete l'agilità del piccolo gruppo, ma la pienezza di suono di una, quasi direi, di una big band. La B col piano come in Powell. Come se fosse un'orchestra. Ernie Henry. Navarro. Thank you. variazione più bebop. Ecco, il pezzo finisce, lo faccio in do, oppure è un'altra tonalità, ma io faccio così. Questo intervallo si chiama tritono, è talmente dissonante che nel Medioevo ci si rendeva conto che era difficile cantarlo. Lo chiamavano diabolus in musica. Bene, il tritono che avete sentito proprio alla fine del pezzo non solo suona come bebop, sempre l'onomatopea, ma è una specie di marchio di fabbrica del bebop. Cioè il bopper riempie i suoi fraseggi, i suoi assoli e i suoi temi di questo intervallo, che alle orecchie di molti tradizionalisti dell'epoca era considerato sgradevole, appunto, spigoloso, dissonante, e invece loro ne facevano uso ed abuso, addirittura in forte evidenza, come alla fine di questo pezzo, come per dire la firma, no? È il nostro marchio di fabbrica. Torneremo più avanti sulla cultura del bebop, ma intanto questa foto mi suggerisce, mentre ascoltavamo il pezzo, che c'è anche una, diciamo, sottocultura del bebop legata alla tossicodipendenza. 3 persone su 4 di questa foto erano eroinomani, tutti tranne Charlie Rouse, il sassofonista sulla sinistra, Ernie Henry, Tad Dameron, Fats Navarro. In particolare il sassofonista Ernie Henry e Navarro moriranno molto giovani, Navarro per complicazioni di tubercolosi ed eroina, Ernie Henry come eroinomane, mentre Tad Dameron vedrà la sua carriera stroncata alla fine degli anni 40 perché finirà in carcere per un decennio e poi lavorerà brevemente solamente nei primi anni 60. Questa sottocultura dell'eroina è un aspetto deteriore, ma purtroppo, come dire, caratterizzante del mondo del bebop. Non tutti, attenzione, erano eroinomani. Faccio l'esempio di Charlie Rouse, ma l'esempio più importante di persona che ha vissuto a lungo in salute è Dizzy Gillespie, per esempio. Ma non c'è dubbio che la diffusione dell'eroina nell'immediato dopoguerra, nel ghetto nero ad Harlem, che nessuno, tra l'altro, va detto, a livello di polizia o di FBI, nessuno provò ad arginare, faceva comodo in un certo senso che l'eroina affluisse nel ghetto afroamericano, questo fu un problema grossissimo che decimò la comunità dei musicisti, anche per un effetto, come dire, di malinteso, effetto di esempio, perché in particolare Charlie Parker, che era considerato il leader della comunità bebop, era eroinomane, e allora molti pensavano che l'eroina potesse aiutare a suonare meglio come suonava Charlie Parker, poi per rendersi conto che invece non era così. L'eroina era anche, qualcuno la definiva la droga da lavoro, Jackie McLean, perché era anche un modo per combattere l'enorme frustrazione di questi musicisti, una frustrazione artistico-professionale. Questi sono musicisti che hanno cambiato la storia della musica, ma guadagnavano cifre irrisorie, suonavano pochissimo, erano, e ci torneremo sopra, afroamericani, quindi erano trattati malissimo fuori dallo studio di registrazione o dal locale in cui suonavano, erano cittadini di serie Z, e la loro grandezza non veniva riconosciuta. Loro sapevano di essere geniali, ma venivano presi, scusate l'espressione, a calci nei denti nella vita quotidiana. E quindi questa frustrazione pesantissima spesso veniva alleviata dall'eroina. Veniamo all'improvvisazione. Questa è una foto molto bella che viene fatta alla Town Hall, ad uno dei primi concerti bebop della storia, fatti in un teatro, 1945, con Charlie Parker e Dizzy Gillespie. Vedete, giovanissimi, nel 1945 Parker ha 25 anni e Gillespie ne ha 28, e questa diciamo, è appunto l'età media della loro... E Gillespie è un musicista già con una certa esperienza di orchestra. Come funziona l'improvvisazione bebop? Allora, la prima cosa da dire è che prevalgono le linee lunghe melodiche. Più la linea è lunga e più, come dire, rientra in quel gusto tipicamente bebop. Ma queste linee lunghe possono essere spezzate da delle pause, e questa è una grande novità, in punti totalmente, come posso dire, incoerenti, senza una logica apparente. Questa è una delle grandi innovazioni del bebop. Cioè i solisti bebop spesso attaccano una frase, si fermano in un punto qualsiasi e riprendono da un punto qualsiasi. Sta a noi ascoltatori, sta al nostro cervello rimettere insieme i pezzi. Oggi, dopo 50 anni, 60 anni, abituati a sentire jazz che si fonda sulla logica del bebop, non ci facciamo più caso. Ma se leggiamo le testimonianze dei musicisti dell'epoca, il motivo per cui il bebop era considerato una musica incomprensibile era questa. Cioè questa sembrava che suonassero a casaccio. In realtà seguivano una, come posso dire, una logica narrativa, una sintassi nuova. In più questa sintassi era infarcita di dissonanze, compreso il famoso tritono, scusate, di cui parlavamo prima, messo un po' ovunque. Gli accenti, appunto, come vi dicevo, erano completamente irregolari. E le frasi stesse contenevano al loro interno delle dissonanze. Per esempio, l'accordo sotto c'è questa nota e sopra c'è una frase. È tutto un po' storto, però quasi non ce ne accorgiamo, perché spesso la velocità del fraseggio e l'incoerenza della costruzione, l'apparente incoerenza dell'incostruzione, non ci fa comprendere, sentire tutte queste dissonanze, ma noi percepiamo che c'è qualcosa di cubista, diciamo così, di un po' slegato, di un po' storto. Noi ascoltiamo, per capire bene questo tipo di fraseggio, un altro brano registrato lo stesso giorno di Salt Peanuts, dallo stesso gruppo. Non vi ho detto che quel gruppo che abbiamo ascoltato comprendeva Sidney Catlett alla batteria, che poi sarà il maestro di Max Roach, Carly Russell, scusate, al contrabbasso, e un pianista bianco, non afroamericano, Clyde Hart. È lo stesso gruppo che suona Hot House, che ha un... Vabbè, anticipo un'altra cosa. Hot House è basato sul giro armonico di un pezzo di Cole Porter, What is this thing called love? Ma per ora, diciamo, prendiamo per buona questa informazione, ci torniamo. Cioè, questo pezzo così d'avanguardia è basato su una canzone leggera. Come dissonante il tema. Tromba e sax all'unisono. Dissonantissimo. Sentiamo gli assoli. Parker. Improvvisi raddoppi. senza logica. Poi riprende normale. Dissonante. Un richiamo. Lo riprende Gillespie. Anche lui raddoppia. Poi spara. Raddoppia. Molto dissonante. Delle cose chiave, degli aspetti chiave del bebop, perché spesso durante gli assoli ci sono delle citazioni di tutti i tipi. Qualcuno si ricorderà che nella lezione che facemmo su Coco, non so più se 3-4 anni fa, addirittura scoprimo che Charlie Parker cita delle specie di uccelli, il canto degli uccelli messo dentro gli assoli. Ma c'è un gusto della citazione continuo che vorrei farvi emergere, aiutare a comprendere, ascoltando un brano bellissimo. Anche questo lo abbiamo già ascoltato in una scorsa lezione dedicato a Fats Navarro. Il brano si chiama Nostalgia e ci mostra, tra l'altro ne approfitto per mostrarvi il lato più lirico del bebop, quello più melodico, disteso, cantabile, perché Navarro, come il suo amico Ted Dameron, ha questo senso della melodia distesa. Le melodie sono lunghe, con delle dissonanze e con le loro interruzioni, ma il tempo è meno rapido e c'è proprio il gusto di fare qualcosa di caldo, di cantabile. Come vedremo all'interno di questo bellissimo assolo di Navarro in Nostalgia, ci sono due citazioni che ho già messo lì ma che poi vi farò sentire. Qui sono tromba e sax tenore. Tema. Sentite com'è disteso. Il pianista è Dameron. Ora sentite l'assolo di Navarro, è cantabile. Una citazione. Il Questa ne un'altra. Allora, ci sono due citazioni in questo assolo, ma ci sono citazioni in tutti gli assoli di tutti i bopper. Per esempio, una citazione, prima di spiegarvi questa, ricorrente, viene dalla Carmen di Bizet. Ta pa pa pa pa pa pa pa. Gillespie la usa continuamente. Charlie Parker amava citare Stravinsky o Louis Armstrong. Uguale, due opposti. Magari un giorno faremo una lezione di jazz sulla citazione, non sarebbe male. Queste due citazioni sono, la prima viene da un canto popolare irlandese. È una melodia irlandese che si chiama Irish Washerwoman, che lui fa rallentata, ma se uno la pensa veloce, scopre che questa citazione è di una melodia irlandese. L'altro pezzo è un pezzo di Duke Ellington. È una citazione di una pezzo di Duke Ellington dei primi anni 30, quindi piuttosto lontano dalla cultura musicale apparente dei boppers. Voi direte, ma se io non lo so, come faccio a capirlo? Siete fregati, non c'è modo di saperlo. E vi spiego perché. Perché il bebop è una cultura iniziatica. Se capisci l'allusione, stai dentro. Se non la capisci, t'arrangi. Sei fuori. Certo, loro non prevedevano l'arrivo delle lezioni di jazz all'auditorium, che avrebbe svelato, diciamo, i segreti del jazz. Però il bebop è davvero cultura iniziatica. Tra un momento ve ne darò un esempio ancora più forte, diciamo così, ma rendetevi conto che le jam session da cui è nato il bebop, quelle fatte ad Harlem durante la Seconda Guerra Mondiale, da cui poi è sorta questa musica, erano jam session che tendevano non ad includere i musicisti, ma ad escluderli. Cioè, i musicisti dovevano conoscere i trucchi di questi giovani artisti, il senso del tritono, capire la citazione, comprendere che i brani come questo, per esempio, vengono da giri armonici di canzoni pop del momento, come Hot House. Dietro Hot House c'è Cole Porter, e se non lo sai, non riesci a improvvisarci sopra. A noi oggi, dopo 60 anni, questa cosa appare ovvia, la percepiamo, la comprendiamo, ma all'epoca, se uno andava al Minton's e cominciavano a suonare con queste dissonanze strane il pezzo di Cole Porter, beh, un musicista un po' più anziano non ci si raccapezzava e veniva letteralmente buttato fuori dal locale. Cioè, questa è una musica ad escludere, non ad includere. E se stai nel circolo iniziatico, se hai i mezzi tecnici, le capacità musicali, l'orecchio, o sei nel giro giusto, sei dei nostri, altrimenti sei fuori. E questo è molto, come dire, lo vedremo, è molto anche legato a un altro aspetto culturale del bebop e della cultura afroamericana in generale. Ma andiamo per ordine. Ho messo questo diagramma che adesso spaventerà tutti quanti apposta, non lo dobbiamo interpretare, l'ho fatto proprio come un bu per spaventarvi con una cosa complicata. Allora, prima di capiamo un altro aspetto iniziatico del bop, ho messo questo diagramma difficile. Anzitutto ci sono delle cose dell'armonia bebop che si praticavano occasionalmente ancora già negli anni 30, ma che nel bebop diventano costanti. Ora non è che quello che sto per mostrarvi lo dovrete, riuscirete, come dire, a sentirlo automaticamente nei prossimi ascolti o nelle prossime settimane se non siete addentro, però ve lo devo spiegare perché è un aspetto fondamentale del bebop. Dunque ci sono dei passaggi armonici che si chiamano cadenze, cioè sono le frasi, le parti finali delle frasi, e di solito le parti finali delle frasi hanno questo tipo di accordi. Ok? Con il basso che fa? Lo sentite che è proprio conseguenziale, tende ad andare verso la conclusione. Ok? Però i boppers, la penultima nota, questa, siccome la conclusione è fin troppo ovvia, la sostituiscono, indovinate con che cosa? Col tritono, cioè con la nota più dissonante. Quindi invece di fare, fanno. E allora il basso invece di fare, fa così. Lo sentite che è più dissonante? È più ricco? Rifaccio. Versione normale, versione bebop. Ok? Il brano Our Delight di Tad Dameron che abbiamo ascoltato prima, che faceva così. Ok? Si basa proprio su questa idea, sentite. La versione normale sarebbe questa. Faccio il basso. Invece di fare così, Dameron fa così. Ok? Sapete perché cercano queste dissonanze? Non solo per avere delle dissonanze, ma perché se io metto delle note che non mi aspetto negli accordi, quando vado a improvvisare sopra, ho più possibilità. Invece di fare le solite cose, ho delle note in più. Questa si chiama tecnicamente sostituzione di tritono. Anche se non ci avete capito niente, uscite da qui, andate da un amico con un'area un po' boriosa e dite: tu sei andato alla lezione sulla resistenza, ma io ho capito la lezione di tritono, la sostituzione di tritono. Questo è un primo aspetto dell'armonia bebop iniziatico, ma il più interessante è il fatto che moltissimi pezzi bebop, lasciatemi dire forse 4 pezzi su 5, si basano su canzoni preesistenti. Cioè, Sal Peanuts è basato sulle armonie di I Got Rhythm di George Gershwin. Hot House, così convoluta e complessa, è basata sulle armonie di What Is This Thing Called Love di Cole Porter. Nostalgia, così melodica, di Fats Navarro, è basata su una canzone dell'epoca che si chiama Out of Nowhere. È quello che tecnicamente si chiama mascheramento. Prendo una vecchia canzone, ci tolgo il tema originale, ci lascio l'armonia di accompagnamento e ci scrivo sopra un tema modernista. Mi seguite? Il tema modernista è talmente eccentrico che l'ascoltatore dell'epoca non si accorge che sotto c'è una vecchia canzone. Questo è un modo tipico della cultura bebop di giocare col rapporto tra innovazione e tradizione. Cioè prendo una cosa vecchia che tutti conoscono, su cui tutti sanno suonare, ci metto una cosa nuova e la maschero e appare completamente nuova. A volte il mascheramento lascia intendere quello che c'è sotto, per esempio il famoso pezzo di Charlie Parker, Ornithology, è basato su una canzone che si chiama How High the Moon, che penso che conoscerete. Giusto? Io faccio questi esempi perché magari qualcuno mi ingaggia anche a una festa sua per piano bar, arrotondo, diciamo così. Perché quest'anno faccio meno lezioni di jazz, quindi ho bisogno di compensare. Allora, io lo so che c'è gente che viene qui solo per le battute, però pazienza. Questa è How High the Moon. Notate che la melodia sale, no? Ornithology di Charlie Parker è molto diversa, si basa sulle stesse armonie. è molto diversa, ma conserva di Howard the Moon l'andamento ascendente. Ok, poi prosegue in un'altra maniera, ma sentite l'inizio. E invece Howard the Moon faceva... Le prime quattro note sono le stesse. Eccetera. Ascoltiamo. Il tema di Howard the Moon suonato da violinista Ray Nance, violinista di Duke Ellington, e poi la versione di Ornitologi di Charlie Parker con un giovanissimo ventenne Miles Davis alla tromba. Oh, scusate, c'è prima Ornitologi. Scusate, ho messo i brani nell'ordine sbagliato. Allora, ecco qua. La melodia è molto liscia, gradevole. Ok? Questa invece è la versione di Charlie Parker. Il mascheramento, appunto. La batteria come dialoga sotto, Roy Porter. Lucky Thompson. Questo è proprio un classico del bebop. E i mascheramenti possono arrivare a esiti paradossali. Vi metto a fianco una canzone del 1930 che ascoltiamo in una versione del 36, giusto il tema, una canzone di James P. Johnson, A Porter's Love Song, e sentite come Monk la trasforma in 4-in-1. 4-in-1, il titolo viene dal ritmo, ci sono quattro note, cioè sono le semicrome. 1, 2, 3, 4, sono quattro note in ogni colpo, questo vuole dire Monk. Qui abbiamo, Monk ha volutamente scelto la canzone più banale che si possa immaginare, con le armonie e il tema più anonimi che riusciate a immaginare, e per farne invece un pezzo completamente folle. Vi faccio sentire giusto il ritornello. A, A, B, A, seconda A, arriva la B. Sentite cosa ne ha fatto Monk. Pazzesco, Non solo potete legittimamente dire non ci sarei mai arrivato, ma lì c'è il numero verde delle lezioni di jazz, basta chiamare e uno dà la risposta, ma è qui l'elemento iniziatico. Cioè io ti sto proponendo, nel caso di 4-in-1, un pezzo totalmente folle da un punto di vista tematico, apparentemente incoerente con questi ritmi che si accavallano, le pause improvvise, le dissonanze che spezzano la melodia, e cosa c'è sotto? La canzonetta. La canzonetta più banale. Questo è non solo un modo per rapportarsi con la tradizione, è un modo per dire ho rispetto della tradizione, ma la devo rinnovare. Al tempo stesso è un modo per dire se tu sei parte di quella tradizione, mi capisci, mi segui e comprendi l'operazione che sto facendo. Se non sei parte di quella tradizione, sei fuori, sei uno spettatore passivo che non comprende la complessità della mia operazione. Come vedete non c'è nessuna, e questo è tipico del bebop, non c'è nessuna voglia di piacere e farsi capire a tutti i costi. Questo è fondamentale nel bebop. È una musica che, come dire, è autosufficiente, poi se il pubblico riesce a capirla, tanto meglio. Veniamo invece a un aspetto fondamentale della tradizione, che è il blues. Anche nel blues troviamo molti elementi innovativi del bebop. Io qui in sequenza vi ho messo tre blues di Charlie Parker per farvi vedere come il blues sia oggetto di un profondo ripensamento, ma anche di un profondo legame con la tradizione in Charlie Parker. Innanzitutto perché Charlie Parker, ve lo ricordo, viene da Kansas City, e Kansas City, Missouri, è stato uno degli epicentri dello sviluppo del blues negli anni 20 e 30. Parker è cresciuto mangiando pane e blues, ce l'aveva proprio dentro, ma non perché fosse afroamericano, perché è cresciuto ascoltando quel tipo di tradizione e quella musica. E però, essendo anche un bopper con una visione modernista della musica, d'avanguardia, ha al tempo stesso sia conservato degli elementi della tradizione, in altri casi invece ha trasformato quella tradizione. Ed è il caso del brano che si intitola Bird Feathers, 1947. Qui sentiamo il più puro quintetto bebop, il quintetto di Parker del 47. Charlie Parker, Miles Davis alla tromba, 21 anni, Duke Jordan al pianoforte, Tommy Potter al contrabbasso, Max Roach alla batteria. È uno dei quintetti più tipici del bebop. E sentite come il blues qui, cioè sul giro del blues, è sovrapposto un tematismo che è un po' come quello di Hot House o Salpinas, cioè un tematismo spigoloso, angolare, molto dinoccolato e articolato. Incoerente quasi, ma va. Ancora. Non suona blues. Il suo solo. Giovane Max Roach, a tra poco cari. Tommy Potter. Max Roach. Bebop, sempre lì andiamo a cascare, notate come lo stile compositivo, tra l'altro, di Parker è molto diverso da quello improvvisativo. Tanto è fluido nelle improvvisazioni, tanto invece è volutamente spezzettato nei temi. Papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, papà, è tutto a frammenti che poi il nostro cervello, appunto, come dicevo, rimette insieme. Mentre quando fa gli assoli è molto più disteso, è molto più lirico, più melodico per certi versi. E questo è interessante perché vuol dire che Parker, quando scriveva i temi, ragionava in un modo. Quando improvvisava, ragionava in un altro. Ci fa capire che aveva anche una mente compositiva. Ora, il suo assolo aveva degli elementi blues, ma era molto più bebop in senso contemporaneo. Ma Parker era anche capace di suonare il blues nelle sue forme più viscerali, più tradizionali, più legate al blues contadino arcaico. E questo Parker Bluesman si coglie molto bene in un famoso disco del 1948 che si chiama Parker's Mood. Al pianoforte c'è John Lewis, è un blues lento E il primo brano lento, tra l'altro, che ascoltiamo questa mattina in questa lezione sul bebop, poi vedremo di capire meglio uno di questi aspetti del tempo lento, ma intanto è un blues lento e sentite come Parker, dopo l'introduzione, che è una specie di piccola fanfara di apertura di sipario che viene suonata anche alla fine, forse un'idea di John Lewis, comincia invece poi a suonare il blues nel modo più classico, proprio da cantante di blues. Ed ecco la solo di Parker. Finisce così, mezzo sospeso, Parker's Mood. L'ultimo blues che vi voglio far ascoltare è molto interessante perché ci mostra un approccio completamente diverso, il cosiddetto blues arricchito. Allora, per capire di cosa si tratta, dobbiamo spiegare una cosa. Il bopper ama fondamentalmente improvvisare delle melodie su delle armonie complesse. Anzi, non solo le armonie devono essere complesse con quelle sostituzioni che vi facevo sentire prima, come quella di tritono, ma più accordi ci sono dentro il pezzo, meglio è, perché vuol dire che, allora spiego meglio questa cosa dell'improvvisazione, gli accordi sono la base armonica, che determinano il numero di note che uno può scegliere di suonare sopra. Ora, se ci sono pochi accordi, ho poche opzioni sopra e improvviso con poche note, è quello che spesso succede nel blues. Se io invece metto molti accordi sopra, ho più opzioni, però la cosa diventa più difficile, soprattutto se vado a un tempo veloce, per cui per esempio se vado a questo tempo e faccio un accordo ogni quattro quarti, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, mettiamo una cosa così. Ok? Ma se faccio gli accordi vanno più velocemente, cambiano uno ogni due colpi, giusto? Quindi quello che devo fare sopra diventa uno slalom, letteralmente, più complesso. Non solo, ma se aggiungo gli accordi, sentite, faccio una cosa del genere. Che so. Facciamo. Ho messo 8 accordi invece di 4, alla stessa velocità, un accordo ogni colpo, da, quindi sopra diventa ancora più frenetico, ho ancora più chance, più possibilità. Il bopper va in cerca di questo. Più accordi ci metto, più possibilità ho, e se sono veloce diventa ancora più difficile, e quindi ricordatevi sempre, ad esclusione, chi non ce la fa rimane indietro. Questa procedura viene applicata anche al blues. Il blues ha pochi accordi. Per esempio, un blues in do farebbe... Ok? Tutto qua. Cosa fa in Blues for Alice invece Charlie Parker? Gli spazi fra un accordo e l'altro li riempie con altri accordi. Per esempio, all'inizio il blues fa così. Poi va a finire qui. Le note sono queste. Ok? Lui da questa nota qui a questa ci mette queste. Ma il tempo è più rapido, eh. Quindi lui suona. Ok? Sentite quanti altri accordi ci sono, anche se non, come dire, non siete in grado di tradurre in termini tecnici quello che vi ho suonato. Avete sentito che c'è molta più ciccia, diciamo, sulla... al fuoco, molta più carne al fuoco. Il blues arricchito è questo: prendere gli accordi principali del blues e farcirli mettendoci dentro molti altri accordi di passaggio. Per andare dal punto 1 al punto 2 ci metto altri 4 accordi, per andare dal punto 2 al punto 3 altri 4 accordi in mezzo. I punti cardinali rimangono gli stessi, ma in mezzo ce ne metto molti altri, così che quando lo vai a suonare non suona come un blues, perché sopra suona come una canzone con tanti accordi, perché sopra ci improvvisi in maniera più ricca. È quello che succede in Blues for Alice. Il genio di Parker sta che in tutto questo si è inventato anche un tema melodico, bellissimo, molto cantabile. Salziamo un po' il volume. Faccio vedere meglio. qualcuno poteva legittimamente dire, ma se non me l'avessi detto prima non avrei capito che era un blues. Era esattamente lo scopo di Charlie Parker, cioè arricchire il blues tradizionale in maniera tale da renderlo quasi irriconoscibile. Ora vorrei aiutarvi a capire qualcosa di più su questa apparente incoerenza dell'improvvisazione bebop. Come vi dicevo all'inizio, i solisti venivano considerati capaci di suonare a soli senza capo né coda, e c'è un esempio fantastico. Innanzitutto vorrei ascoltare per intero, anzi no, siccome è tardi, non ascoltiamo per intero, perdonatemi, sentiamo solo l'assolo di Charlie Parker di questo pezzo. Vi faccio sentire due volte. Prima l'inizio, il tema e l'assolo di questo titolo dal pezzo assurdo, dal titolo, questo pezzo dal titolo assurdo, Klakto Widerstein, dovrebbe essere una specie di deformazione ironica di Auf Wiedersehen. Pensate un po'. C'ha un'introduzione, un tema bellissimo e l'assolo di Parker. Ascoltiamo un attimo l'assolo di Parker, poi mi interrompo e vi faccio risentire solo l'assolo. Sempre il quintetto con Miles Davis, Bill Jordan, Max Roach. Vado a farvi sentire, risentire l'assolo. È un capolavoro di, come posso dire, di architettura improvvisata. Attenzione, l'assolo è completamente improvvisato. 10 minuti dopo Parker fa un'altra versione dello stesso pezzo, che trovate sui dischi di Parker regolarmente, la take 2, e l'assolo è completamente diverso. Quindi vuol dire che quello che ha fatto qui se l'è inventato al momento. Allora sentite cosa fa. Lui inizia suonando delle note isolate, pa, pi, po, pa, così. Poi, man mano che va avanti, queste note si avvicinano sempre di più e cominciano a creare delle frasi. Questo sulle prime due A. La seconda A è decisamente molto più coesa della prima. Quando va sulla B, ricomincia a spezzare le frasi. Sull'ultima A, invece, prende fiato e ricompone tutto questo caos che ha creato in un'unica lunga frase. Sentiamolo anche un paio di volte. Seconda. Poi di nuovo a spezzetti. Ultima. Formidabile, cioè sono solo 32 battute, ma c'è una complessità di pensiero musicale straordinaria, e questo è puro bebop. Questo lo salterei, mentre voglio farvi sentire qualcosa di completamente diverso, come direbbero i Monty Python, cioè l'improvvisazione tematica. Che cos'è l'improvvisazione tematica? Ve la faccio scoprire, perché poi diventerà il cuore, per esempio, di un modo di improvvisare di un grande musicista bop come Sonny Rollins. Cioè, tutti gli esempi che abbiamo sentito fin qui, c'è il tema e poi Parker o Gillespie o Bud Powell fanno gli assoli. Ma questi assoli non hanno niente a che fare col tema da un punto di vista melodico. C'è solo la base armonica che è la stessa. Invece Thelonious Monk è stato il maestro dell'improvvisazione tematica, che vuol dire che l'improvvisazione viene fatta non con del materiale melodico che mi invento sul momento, ma col materiale del tema, che quindi si riverbera su tutto il pezzo. Qui è particolarmente facile da riconoscere, sapete perché? Perché il tema di Monk è fatto da una nota sola. E fa così. Adesso non mi ricordo se è un fa, comunque è questo. Ok? È sempre questo. Quindi voi sentirete che durante il suo assolo di pianoforte, lui gioca continuamente con questa nota ribattuta. È appunto un esempio di improvvisazione tematica, che verrà poi assimilata da personaggi come Sonny Rollins, che andava a casa di Monk a studiare, il quale Rollins costruisce, lo abbiamo spiegato in una passata lezione di jazz, i suoi assoli proprio spesso in questo modo tematico. Questa è l'introduzione, anche l'introduzione è fatta con la stessa nota. Tema. Poi divaga. Ma ritorna a casa. Un pezzo del tema. Stride. Sempre con quella nota. Cita Salpinas. Prende il tema, A, B. Noterete che Monk, tra l'altro, viola un'altra delle regole del bebop, quella per cui il tema è fatto dai fiati all'unisono. Qui i fiati fanno solamente da sfondo, mentre il pianoforte martella questa nota che funge da tema. Ora, c'è un altro aspetto del bebop che non abbiamo ancora esplorato, avviandoci verso la parte conclusiva, e cioè la ballad. Tutti i pezzi che abbiamo sentito, tranne Parker's Mood, sono pezzi veloci, ma nel bebop c'era la ballad, si suonava lentamente. Certo, era più rara obiettivamente, ma un maestro assoluto della ballad è stato sempre lui, Charlie Parker, che ha introdotto un concetto diverso. In genere la ballad, ai tempi di Coleman Hawkins, era una specie di orazione, lasciatemelo dire, erotica, di una specie di maschio, il sax tenore, che mostra, come dire, la sua potenza seduttiva attraverso il suono dello strumento. Poi è arrivato Lester Young con la sua fragilità anche e il suo senso melodico, ma Charlie Parker ha introdotto un elemento nuovo nella ballad. La ballad diventa un momento di riflessione, come posso dire, totalmente introspettiva. Cioè, sembra che Parker suoni non per gli altri, ma rumini, come dire, dentro se stesso, i suoi pensieri musicali. E qualcuno ha parlato di metafora, come una metafora di qualcuno che suona al buio, no? Al buio della propria mente, e si lascia andare ai suoi pensieri. Si capisce che lui non vuole né essere ascoltato né convincere nessuno. È una riflessione tutta interiore. Questa è Don't Blame Me. Miles Davis, sempre quintetto. Accenna al tema. Sentite quanto è vario nel materiale che mette dentro. Sembra frenetico. Poi si lascia andare. Avrete notato il carattere totalmente antisentimentale, diciamo, dell'approccio di Charlie Parker. Quando ho preparato questa conferenza, l'altro giorno ho fatto rapidamente il calcolo dei tempi per la durata, che come sapete eccede sempre la vostra pazienza, e avevo messo dentro qualcosa come 85 minuti di musica. Ho detto, vabbè, non esageriamo. Quindi non vi farò sentire alcuni dei più grandi strumentisti del bebop, volevo farvi sentire anche come il bebop col sax tenore, per esempio, in The Chase, la caccia, che in questa foto pubblicitaria Walder Gray a sinistra e Dexter Gordon a destra, per inciso, nonostante il sorriso, tutte e due eroinomani, ma forse proprio a causa del... Walder Gray farà una bruttissima fine, tra l'altro, decapitato dagli spacciatori. Dexter Gordon invece passerà tutti gli anni 50 in carcere prima della rinascita negli anni 60. Ma The Chase, appunto, questa gara, questa lotta, fra questa caccia fra i due sax tenori, è una delle pagine chiave del sax tenore bebop. Il sax tenore bebop è tutto influenzato fortemente da Lester Young. Il suono dei due è quello di Lester Young con due diverse varianti. Il bebop è anche musica per tromboni, è il momento in cui emerge il trombone bebop con la stella straordinaria virtuosistica di J.J. Johnson, ma anche di uno strumento apparentemente poco agile e ingombrante come il sax baritono di Leo Parker. Il bebop è l'epoca in cui il clarinetto va in declino Artie Shaw, Benny Goodman, il clarinetto come strumento dello swing, ma in realtà ci sono due clarinettisti, guarda caso tutti e due di origine italiana, Buddy DeFranco e Tony Scott, che portano il linguaggio di Charlie Parker su uno strumento considerato ormai desueto, fuori moda, ecco. Ma vorrei adesso dire qualcosa, aiutarvi a comprendere qualcosa di più sulla come ascoltare i pezzi bebop, la forma dei pezzi bebop. Pezzi come Bird Feathers sono pezzi che abbiamo sentito prima, il blues di Parker, i blues di Parker sono semplicissimi. Il pezzo bebop di solito ha un tema, una serie di assoli e la ripresa del tema. Basta. È la forma più semplice possibile. Tutt'al più ci può essere un'introduzione e una coda, tutt'al più. Ma, ecco, vi faccio sentire l'inizio di Scrapple from the Apple di Charlie Parker, che ha proprio questa struttura, un'introduzione, il tema e poi gli assoli. Abbiamo già sentito tanti esempi, ma... Ah, tra l'altro ne approfitto, anche questo è un mascheramento, eh? È un mascheramento di una canzone di Fats Waller, Honeysuckle Rose, quella che faceva... Ce l'avete presente? Ecco... Scrapple from the Apple fa è la stessa armonia ma con un tema diverso, dentro c'è anche il tritono bebop, sempre lì. Introduzione. È sempre il quintetto con Miles Davis, il 47. Tema. La prima A, la seconda A, uguale. Nella B, Parker improvvisa. Seguono gli assoli. Notate, tra l'altro, mi fermo in questo modo, notate tra l'altro che Parker scrive solo 8 battute del pezzo, il pezzo è A-A-B-A, ma siccome nella B improvvisa, lui ha dovuto scrivere solamente le 8 battute dell'A, è il massimo, come dire, dell'economia. Tu scrivi un pezzo scrivendo solo 8 battute, sulla B improvvisi, il giro armonico l'ha scritto Fats Waller. Ed è perfetto così. E tra l'altro un modo economico, anche, non dimenticatelo, anche per una questione di diritto d'autore. In questo modo Charlie Parker incassa, come dire, il diritto d'autore di un pezzo suo e non di Fats Waller. Il bebop in realtà può avere anche delle forme più complesse. Una delle più affascinanti è quella di A Night in Tunisia, che è un pezzo di Dizzy Gillespie, ma, come sapete, inciso anzitutto da Charlie Parker nel 1946, sempre con Miles Davis alla tromba. Seguiamo insieme la struttura, guardate quanto è articolata. Introduzione che dura 12 battute. C'è un altro livello? Seconda. Parte sulla B. Scritta, eh? Gillespie ha scritto una transizione. Mm-hmm. Chuck Thompson. Marvin Garrison. Fa solo la B, perché sulla A. Vedete che l'arrangiamento richiede un bel po' di pianificazione. In neretto ci sono le parti scritte e in corsivo quelle improvvisate. I musicisti suonano sia l'una sia le altre. Vi voglio far sentire un altro esempio di uno dei più bei temi di Tad Dameron, di quelli cantabili. Qui abbiamo un sestetto con due sax tenori e la tromba di Fats Navarro. Addirittura qui la scrittura sembra da big band, perché a un certo punto gli assoli sono interrotti da uno special, cioè da una parte scritta per l'ensemble, che tra un assolo e l'altro. Sentite che bello. Il tema è semplicissimo. Tenore. E ora in mezzo. Come una big band. Mezzo giro, l'altra metà per tanto. Alla fine. C'è una piccola coda. Vedete anche qui come è articolato, pur nella sua semplicità, la struttura è estremamente, estremamente complessa. Ora vedo che è tardi, io ancora avrei ancora molti ascolti, ma in realtà salterò qualcosa per andare verso le conclusioni. Però c'ho ancora due cose da farvi sentire. La prima riguarda un organico che sembrava scomparso dall'orizzonte del jazz, cioè la big band. E in realtà la big band rimane nel bebop, soprattutto grazie a Dizzy Gillespie, che è un uomo da big band, è un uomo che è cresciuto nell'orchestra di Cab Calloway e riesce a tenere in piedi, in un'epoca in cui le big band non ce la fanno, due orchestre, una tra il 46 e il 47, l'altra tra il 47 e il 49. La cosa straordinaria è che Gillespie riesce a portare la velocità, il sound, la frenesia del bebop nella scrittura per Big Band. Forse il pezzo più pazzesco lo ha scritto il suo collaboratore Gil Fuller nel 1946, ha il titolo profetico Things to Come, le cose che verranno, come dire, questo è un pezzo d'avanguardia. Magari alziamo un pochettino il volume perché questo è un pezzo di un impatto incredibile, porta, come dire, trasla il virtuosismo solistico del solista bop su tutta l'orchestra. Sentirete Gillespie al sax alto, Gillespie alla tromba, Saeb Sheab al sax alto e un giovane vibrafonista di nome Milton Jackson. Pezzo mozzafiato, vado all'ultimo ascolto, vi dico che cosa saltiamo, così lo mettiamo diciamo insieme al pranzo di oggi che so che già avete i parenti a casa che vi aspettano. Abbiamo dedicato un'intera lezione al bop afro-cubano, quindi vi rinvio al podcast per scoprire come il bebop si è mescolato con la musica cubana in una fase storica decisiva, rivoluzionaria, importantissima che ha avuto come protagonista Dizzy Gillespie. Magari faremo una lezione di jazz un giorno su Woody Herman, che ha portato anche lui il bebop nella big band, ed è un'orchestra bianca che ha portato il bebop nella big band. Poi avevo preparato un excursus, tanto ho detto il bebop, sono quattro ascolti, in un'ora finisco. Non era così purtroppo, mi illudevo. Però l'ultimo ascolto lo voglio fare sul canto, perché è la cosa meno conosciuta. I boppers inventano un nuovo modo di cantare che è uno scat dove invece di usare le sillabe di Louis Armstrong si usano più le labiali la la la per esempio le pup, la pi, pa, pu, pu, tu, ta, pa per esempio. Il padre del canto bebop è un musicista che si faceva chiamare Babs Gonzales, Ma lo stesso Dizzy Gillespie era un notevole cantante bebop con il suo collaboratore Joe Carroll, che vedete a sinistra nella foto. Ma io chiuderei la conferenza ascoltando uno dei più formidabili esempi di canto bebop, che è quello di Ella Fitzgerald, anche perché Ella Fitzgerald nel 47 incise How Wide the Moon cantando prima la versione originale e poi il mascheramento di Charlie Parker, cioè Ornithology, che abbiamo ascoltato prima, e poi ci improvvisa, in realtà non improvvisa, è una parte preparata, sembra improvvisata ma non lo è, con questa nuova fraseologia bebop vocale. Somewhere there's music, how wide the moon, how faint the tune. Somewhere there's heaven, how high the moon. There is no moon above when love is far away too. Till it comes true that you love me as I love you. Somewhere there's music, it's where you are. Tipo sulla destra Gillespie, Somewhere there's heaven, how near, how far. The darkest night would shine if you would come to me soon. Until you will, I still my heart. E ora canta Ornitologo. High the moon is the name of the song. High the moon, though the words may be wrong, we're singing it because you ask for it. So we're swinging it just for you. How high the moon, does it touch the stars? How high the moon, does it reach up to Mars? Though the words may be wrong to this song, we're asking a high, high, high, high, high is the moon. Boo, boo, boo. Ora improvvisa. Boo, di, di, di, di, da, boo, boo. Boo, di, di. Ornitologo. Rocking in Rhythm, l'altra citazione. Questo modo formidabile di cantare in realtà non l'ha inventato lei, adesso non abbiamo il tempo, ma andatevi a sentire quando tornate a casa su YouTube Babs Gonzales. È lui che ha inventato questo modo di cantare. Anche certe frasi che fa ella, questo mulinello lo ha ripreso Gillespie, lo ha ripreso Ella Fitzgerald, è lei che ha inventato questa cosa. E lui, cioè, scusate, Babs Gonzales, il vero padre del canto bebop. Chiudiamo con una riflessione. Avete visto che in molte foto i boppers si vestono con una specie di divisa, avevano una specie di divisa, e la divisa era il basco, occhiali scuri, meglio se con la montatura scura, e pizzetto. L'abito doveva essere elegante, a volte era lo zoot suit, si vede in altre foto, l'uomo a fianco a Monk e il trombettista Howard McGee, quello è Gillespie, a sinistra Monk. Lo Zoot Suit era stato inventato da Cab Calloway, spalline molto larghe, pantaloni larghi come dire, vita molto stretta, con questa giacca lunga e a vita stretta e spalline molto larghe. Grande senso dell'eleganza. Il bopper è, come dire, quello che poi verrà chiamato hipster, cioè è uno alla moda, è uno figo, è uno che si atteggia in un certo senso, che ha una divisa perché è diverso dagli altri. Attenzione però, questa diversità, questo essere diverso dagli altri, questo essere hip, diversi alla moda, all'avanguardia, è degli afroamericani. Qui stiamo parlando di individui che dopo la guerra sono tornati a casa, non è il caso di Parker Gillespie, ma della comunità afroamericana, che hanno combattuto contro Hitler in Europa e si ritrovano a casa presi a calci nel sedere perché sono dei negri, sono degli esseri inferiori che non hanno diritti. Allora, il bop in realtà è una forma di resistenza, è un modo di essere separati dagli altri, ma come? Mostrando la assoluta superiorità musicale degli afroamericani. Gli esseri considerati, come dire, cittadini di serie Z, considerati esseri inferiori, sono in realtà eleganti, alla moda, fanno parte di un circolo esclusivo dentro il quale è difficilissimo accedere a meno che non si possiedano le doti musicali di carattere superiore che solo pochissimi di loro hanno. E quindi si tratta di una forma, il bebop, non solo di espressione artistica fortemente innovativa e individuale, ma anche una forma di resistenza culturale e una forma di affermazione di diversità culturale, che è aperta, perché poi i bianchi ci sono. Clyde Hart, il pianista abbiamo sentito in Sal Peanuts, è bianco. Allen Iger è bianco, l'orchestra di Woody Herman suona bebop. Se sei all'altezza, il colore della pelle non conta, ma tutto parte dalla comunità afroamericana come forma di resistenza e rivalsa. Non a caso, pochi anni dopo, i bianchi, come dire, gli intellettuali bianchi scontenti della società americana, a partire da Norman Mailer, Ferlinghetti, Jack Kerouac, eccetera, daranno origine al movimento, al movimento letterario che conosciamo bene, come ispirandosi proprio agli hipster afroamericani. Perché sono loro il modello, ce lo dicono loro. L'idea di Parker e Gillespie come idea di eleganza musicale, superiorità e diversità culturale diventano un modello. In questo il bebop ha avuto poi un destino strano, perché esauritasi la spinta bruciante del bebop, vuoi per motivi biografici, chi muore per l'eroina, bruciato dalla follia, nel caso di Bud Powell, messo da parte per problemi di tossicodipendenza o perché troppo avanti, come è successo a Gillespie, lo abbiamo spiegato nella lezione sull'Afro-Cuban Bop, il bebop tra il 48 e il 49 si esaurisce, diventa formula. Lo stesso Parker nel 50 rilascia un'intervista e dice: io ho detto tutto, non so più che dire, non so più che fare. Questa formula disgraziatamente è diventata una specie di è diventata una specie di coinè del jazz, è entrata poi nel mainstream, è diventata la base normale del suonare jazz. Oggi chiunque voglia studiare il jazz, l'ABC, non comincia con Armstrong, comincia con il bebop, con Parker. Non a caso, pensate, i primi manuali di jazz universitari usciti negli Stati Uniti negli anni 70 per le università e per i conservatori americani, il primo manuale si chiamava How to Play Bebop, dove bebop era praticamente sinonimo di jazz. Ovviamente non è così. Il mio tentativo oggi è stato di mostrarvi anche l'irriducibilità di questa musica. Dobbiamo imparare a recuperarne la diversità e a non pensarla come un oggetto che si è consumato. Avevo anche un filmato su Parker e Gillespie, ma quello ve lo vedete su YouTube, perché non voglio essere malmenato proprio alla fine di questa lezione a causa del pranzo che arriva. Grazie e buona giornata.